lasciati andare all'idea che niente e nessuno ci porterà via questo incredibile amore che insegue le stelle rinasce col sole. Un incontro di sguardi, un respiro profondo, puoi lasciarsi portare dal vento. Non è soltanto poesia, ma è la tua vita che avvolge la mia. Un'alchimia naturale che rende perfetto anche un giorno normale. Ed io come uomo ti proteggerò, dandoti il meglio che ho. Apro le ali a una nuova esistenza che voglio passare con te. Mentre mi accorgo che nulla ha più senso se adesso il tuo abbraccio non c'è. Sei un pensiero speciale, emozione e colore. Sei una notte orientale, la mia isola nel mare. Lasciati cullare dall'idea che è stato il destino a trovare la via. I due cammini diversi e visti dall'alto poi erano i nostri. Un incontro di sguardi, un respiro profondo, puoi tuffarsi di nuovo nel mondo. Apro le ali a una nuova esistenza che voglio passare con te. Mentre mi accorgo che nulla ha più senso se adesso il tuo abbraccio non c'è. Dietro ai tuoi occhi c'è un'anima grande che vibra di pura energia e sospinge lasciandomi dentro un calore che adesso non va più via. Sei un pensiero speciale, emozione e colore. Sei una notte orientale, la mia isola nel mare. Lasciati andare all'idea, niente e nessuno ci porterà via questo incredibile amore che insegue le stelle, rinasce col sole, rinasce col sole.